La lepre e il porco spino. Molto tempo fa, in un campo di rape, viveva una famiglia di porco spini. Mamma e papà dovevano viaggiare così spesso che i due fratellini gemelli erano sempre da soli. Questo ha bisogno di un po' più di... Questo ha bisogno di un po' più di... Questo ha bisogno di un po' più di... Per l'amor di Dio, di cosa ha bisogno la zuppa? Ha bisogno di un po' più di... Sai cosa? Non ce la faccio più. Me ne vado a fare una passeggiata fino a che non avrai capito cosa manca alla zuppa. E ho davvero tanta fame, quindi scoprilo in fretta. Non riesco davvero a capire qual è l'ingrediente segreto della mamma. Semplicemente non riesco a ricordarlo. Avresti dovuto prendere la ricetta. L'ho fatto, ma l'ho persa. Perché non l'hai presa tu? L'ho fatto, ma l'ho persa. Perché non l'hai presa tu? Io esco da qui. Perbacco, mamma, mi manchi. Torna presto. Porta un'altra rapa per l'insalata, ok? Va bene. Quindi il porco spino lasciò suo fratello a cucinare e uscì per andare a prendere una rapa. Accanto al campo di rape c'era un campo di cavoli, nel quale una lepre si era trasferita da qualche giorno. Ciao, signor lepre. Sei di nuovo da queste parti? Che vuoi, piccolino? Così divertente! Così divertente! È stato così divertente! Così divertente! Ehi, perché l'hai fatto? Oh, piccoletto è arrabbiato! Sei così divertente, piccoletto! Lo adoro! Ehi, smettila! Che problemi hai? Nessuno! Sono preoccupato per il tuo problema! Cosa intendi? Le tue gambe! Ti capita mai di camminare e cadi e rotoli sempre come una palla spinosa? Deve essere così difficile, eh? Vivere con quelle gambe, signor piccoletto spinoso! Va bene, ragazzone, è abbastanza! Poverino! Nulla può essere fatto con queste piccole cose che chiami gambe! Hai davvero cercato di calciarmi con quelle? La cosa più divertente di sempre! Forse non sono capace di calciarti, ma sono certo di poterti battere in una gara! Che cosa? Mi stai sfidando a fare una gara? Sul serio, piccoletto? Sì! Sei spaventato? È stato un bello scherzo, te lo concedo! Quindi sei spaventato? Sei pazzo? Io? Paura di te? Potrei battere 100 di te in un attimo, semplicemente così! Vedi? Non male, ma non veloce abbastanza! Perché non ti alleni mentre io vado a casa per pranzo? Poi gareggeremo da quest'albero all'inizio del campo fino a quello alla fine del campo. Che cosa? Ci incontreremo tra mezz'ora. Ti auguro il meglio. Ha bisogno un po' più di... L'ho fatto davvero? Hai la rapa per l'insalata? Di cosa ha bisogno questa zuppa? Dimentica la zuppa, ho una gara da vincere. Che cosa? Così il porcospino raccontò a suo fratello gemello quanto accaduto fra lui e la lepre. La lepre è cattiva, ma come ha intenzione di vincere la gara? Ho un piano. Il porcospino aveva pensato ad un piano. Mezz'ora dopo, come deciso, la lepre e il porcospino si incontrarono sotto l'albero. Bene, sei in orario. Mi piace. Sei consapevole che questa è una gara di corsa tra me, una lepre, e tu, piccoletto appuntito saltellante? Molto bene. Tu parti da quel solco e io da questo. Prendi la tua posizione. E dai il via. Pronti? Lepre, saltellante piccoletto appuntito, attenti! Lepre, saltellante piccoletto appuntito, attenti! Lepre, saltellante piccoletto appuntito, via! Pensa di potermi battere? Pazzo! Non riesco a vederlo da nessuna parte! Mi stai cercando? Sei già qui? Pensavo tu fossi veloce. Come mai ci hai messo così tanto? Questo non può essere. Gareggiamo di nuovo. Ok. Finalmente sei qui. Mi stavo preoccupando. Questo non sta succedendo. Torna alla fine. Stai diventando più lento ad ogni giro. Forse dovresti allenarti più duramente. Ora ne vedo due di lui. Cosa mi sta succedendo? Avevi detto che avresti potuto battere un centinaio di me e invece hai perso contro noi due. Voi siete gemelli! Giusto! Ma questo è un imbroglio! Siamo spiacenti, ma tu sei stato cattivo e lo sai! Tu hai gambe più forti e più veloci, ma sembra che noi abbiamo più volontà e più intelligenza! Qui, prendi questa! Ci dispiace! Aspettate! Questo è dal mio campo e sono dispiaciuto anch'io. Voi sarete due amici divertenti. Prometto di non essere di nuovo cattivo. Lo promettiamo anche noi. Lo promettiamo anche noi. Questo è ciò di cui aveva bisogno. Cavolo! L'ingrediente segreto della mamma è il cavolo. L'ingrediente segreto della mamma è il cavolo? L'ingrediente segreto della mamma è il cavolo. E così i tre divennero migliori amici. Tutti noi abbiamo qualcosa in cui siamo più bravi e qualcosa in cui siamo meno bravi. Quindi non dobbiamo essere egoisti del nostro talento o depressi per le nostre debolezze.